Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Ma quella frase di Simmons, lavoro di Dio, non l'era piaciuta, no. Era una frase altezzosa, ostentata, compiaciuta. Ne avrebbe parlato volentieri con Daniel se il sesso non avesse confuso ogni cosa. Provò un'inusuale commiserazione per se stessa. Non l'aveva chiesto lei a Daniel Horton di arrossire a quel modo, di abbandonarsi e poi assumere un tono giudicante. Avrebbe potuto convivere con il suo cristianesimo se lui avesse mantenuto le distanze. Le piaceva, ma aveva rovinato tutto. Quel pensiero e il pensiero della vita senza amici di Marcus le fecero rimpiangere di essere lì. A Cambridge volevano che restasse. Avrebbe percorso i corridoi tirati a lucido, discorrendo della prosodia di Keats e di come proteggere le debuttanti intelligenti dalla parte più stupida di se stesse. Avrebbe potuto sposare uno qualunque dei 5 o 6 giovanotti, o forse di più, destinati a diventare docenti universitari, professionali, insegnanti e impiegati municipali, e perfino un modesto proprietario terriero con Rolls Royce d'epoca e un antico maniero che, a suo dire, aveva bisogno di una padrona. Invece era tornata al suo desolato punto di partenza, perché la realtà è sopportare le cose. Ma era realtà quella che Marcus sopportava? E lei? Non stava semplicemente seppellendo il proprio talento nella terra desolata di Blessford? Era tornata, mise tra sé, in parte anche a causa di quei giovanotti, perché era sempre fin troppo lieta di andarsene dal loro letto. Non avrebbe potuto continuare così, né d'altra parte avrebbe potuto continuare a rifiutare ciò di cui sembravano avere voglia o bisogno. Si sentiva usata, e se era così, la colpa era sua. Se Marcus aveva un'insolita avventura, sperava che almeno ne traesse piacere, anche se, a vederlo, non sembrava. Si rese conto di aver percorso metà del perimetro della chiesa e di trovarsi ora contro il muro della sacrestia, accanto a un barile di acqua e un mucchio di corone e mazzi di fiori appassiti. Tra le tombe avanzava verso di lei Daniel, che si era tolto la cotta. Si fermò a qualche passo di distanza e le chiese perentorio. Cercava qualcuno? No, facevo 2 passi. Perché è venuta? Non lo so, per vedere com'era. Ed è soddisfatta? Soddisfatta? Ha visto di cosa si tratta? Non lo so. Non mi è piaciuto. Non credo che si aspettasse niente di diverso. Voglio dire, mi sembrava tutto così falso. Ero avvilita. Il Natale significa qualcosa per me, anche se non... Ma tutto questo è... Il Natale ha una sua autenticità. Le cose sono vere o non lo sono, disse brusco. In fin dei conti, Natale o Pasqua, che siano accaduti o meno, che ci si creda o meno, non sono 2 belle storie, né 2 belle metafore, né folklore, e lei lo sa. Non doveva venire. Non può dire a tutti di non venire solo perché ci sono cose a cui non credono. Non resterebbe nessuno. Questo lo lasci decidere a me. E comunque non lo sto dicendo a tutti. Lo dico a lei. Lei non doveva venire. Daniel fissava la terra sotto i suoi piedi, rincalzata e folta d'erba, le mani serrate dietro la schiena. Se intendeva dire che sono venuta per lei, sì, ma solo per vedere ciò in cui crede, per cercare di capire. Lui inarcò le spalle, come se gli dolesse il collo. Non così giusto, ha capito? No, si sentiva spaventosamente oppressa. Era una donna che, per via di un insieme peraltro diffuso, di sensibilità ai sentimenti altrui e di codardia morale, avrebbe eternamente messo da parte se stessa per non offendere la suscettibilità di nessuno né calpestare salde convinzioni. Con lui non intendeva comportarsi così, replicò pungente. No, a dire il vero, trovo tutta la faccenda ripugnante. Un sacrificio sanguinario imbellettato, una favola senza credibili conferme storiche e una specie di nauseante melassa che ricopre il tutto, come zucchero. È così che la penso. Bene, disse lui lentamente, scurissimo in volto. Sapeva benissimo che le avrebbe fatto questo effetto. Avrei potuto dirglielo io con le stesse parole. Meglio se non veniva. fu la volta di Stefani di arrabbiarsi. «Tutto qui quello che ha da dire? Non mi prende sul serio, lo so. Non gliene importa niente di quello che penso, inutile discuterne, perfettamente inutile. Lei si comporta come se fosse una specie di tentatrice, come se tutto quello che succede, la confusione, l'imbarazzo, fosse opera mia. Come se fossi uno dei suoi peccati. Beh, non lo sono. Io sono d'accordo. Ha ragione. Ritiro quello che ho detto. È tutta opera mia, della mia lentezza. Avrei dovuto fermare tutto prima che cominciasse, ma sono stato troppo lento. Non mi era mai successo niente di simile, gliel'ho già detto. Non ho capito come stavano veramente le cose. Adesso lo so e me la caverò. Me la caverò. E io cosa posso fare? Dimentichi tutto. Torni a casa. Sembrava parlare a se stesso. Disse con rimarcata gentilezza, tranquillizzando se stesso, lei, nessuno dei due. La prossima volta vedrò di capire in tempo. Ci deve essere un momento in cui si decide di non far succedere una cosa, se si sta in guardia. Anche Stefani reagì lentamente. Aveva usato parole violente e si era lasciata sfuggire sentimenti violenti. Ogni espressione di rabbia, dal momento che si sforzava sempre di evitarle, la terrorizzava e insieme la esaltava. Aveva commesso un doppio sacrilegio. Aveva ferito i sentimenti di lui e violato la sua regola personale di comportarsi con mitezza. E lui si limitava a trattarla con condiscendenza. La collera si impadronì di lei e prese la strana forma del desiderio di toccarlo e turbarlo. Sul piano morale, Daniel aveva ragione e lei non aveva giustificazioni. Tuttavia fece un passo esitante oltre il dosso erboso di una tomba e tirò rabbiosamente le mani che lui teneva serrate dietro la schiena. Rivedeva nitidamente quel viso poggiato sulle sue gambe. Daniel sciolse con un gesto brutale il nodo delle mani. «Se continua così», le disse, «dovrò lasciare questo posto. Non lo capisce? E io non voglio. Lei mi tratta come se non fossi qui. Vorrei che non ci fosse adesso. Lei si comporta nello stesso modo odioso che attribuisce a me. Non era tenuto a raggiungermi. Poteva lasciare le cose come stavano. Volevo mettere le cose in chiaro», disse con dubbia autorità. «Ho pregato, ho riflettuto e sono arrivato a capire che sto pagando per aver pensato di essere libero da molte cose dentro di me, dai bisogni personali, dal sesso e così via. Sono lento, lentissimo, ma ho capito la lezione e non si ripeterà. Lei è spaventosamente egocentrico e arrogante, me l'ha già detto, forse lo siamo tutti e due. Posso chiederle per l'ultima volta cosa vuole adesso? Perché è ancora qui? Le l'ho già detto. E io le ripeto che era meglio se non veniva». Al che lei gli girò le spalle e si allontanò a passo svelto. Daniel, che in realtà non aveva premeditato nulla di ciò che aveva appena detto e non aveva pregato né riflettuto ed era ancora leggermente intontito per lo stupore di vederla lì, per poco non le ringhiò di fermarsi, ma ci ripensò e la lasciò andare. Gli sarebbe piaciuto scuoterla fino a farle battere i denti e poi schiacciarla contro il tasso. Invece prese a calci le foglie, i fili arrugginiti delle corone, facendo scivolare giunchiglie illividite, rose marcescenti e iris appassiti. Le scarpe che usava ogni giorno erano umide, infangate, incrostate di petali morti. Arrivata al cancello, Stefani si voltò a guardarlo, e lo vide, scuro e solido, che pestava gli steli morti, premendoli a forza nel terreno. Pastorale. Stefani si recò al vicariato. Andò dritta su per le scale e bussò alla porta di Daniel, prima ancora di pensare che un uomo così impegnato quasi certamente non c'era. Invece lui venne ad aprirle. Indossava un enorme maglione da pescatore di lana grezza su pantaloni di velluto a coste verdi. Sembrava arruffato nell'aspetto e nell'espressione. «Oh, e lei? In cosa posso esserle utile?» «Ho bisogno del suo consiglio, su un problema religioso, o almeno credo che di questo si tratti». «Lei non ha problemi religiosi», rispose brusco. «Non è un problema mio, ma credo che mi riguardi, e credo che stia per accadere qualcosa di terribile». «D'accordo, entri». Di giorno la sua stanza era più triste. Svanito il mistero di calore e ombra, la luce sottolineava la cozzaglia desolata dei mobili. e offrì una sedia e sedette di fronte a lei, le mani sulle ginocchia. «Bene», disse, «di che si tratta?» «Si tratta di mio fratello. Ho visto che, quando sono venuta in chiesa quella volta, ho visto che era con quell'uomo, Simmons, di Blessford Ride, il tizio di biologia. Parlava di lavoro di Dio. Pensavo che forse lei è al corrente di ciò che sta succedendo». «Lei cosa pensa che stia succedendo?» «Non lo so. Credo che sia qualcosa di religioso, non lo so. Voglio dire, di questo non me ne importerebbe di per sé». «E invece sì, ma non si mischierebbe. Continui». «Beh, qualunque cosa sia, ha un effetto terribile su Marcus. Sono entrata in camera sua e l'ho osservato. Di notte esce con Simmons, ne sono sicura. Io l'ho visto che lo aspettava nell'oscurità, come un cane, come l'amante di Lady Chatterley. Cioè, neanche di questo mi importerebbe, però...» «Non c'è niente di cui le importi per principio, però...» «No, se lo vedesse non riderebbe delle mie vane opinioni liberali. Sta malissimo ed è malato. Non mi importerebbe se si trattasse solo di una fase omosessuale. Ho anche pensato che potrebbe essere un bene per lui». «Anche se non fosse solo una fase?» «Non mi prenda in giro. Non ha mai avuto un amico, Daniel. Non ha mai avuto un amico né altro. Sono venuta da lei perché pensavo che ne sapesse qualcosa. Mi mette in una posizione molto difficile. La prego, si dimentichi di noi due. Questa è una storia tremenda». «Non ci pensavo. Non mi attribuisca pensieri che non ho. Sono in una posizione difficile perché Luca Simmons ha già discusso, cioè ha già cercato di discutere la questione con me, e non mi sento autorizzato a tradire una confidenza». La vide arrossire e notò che anche lei sembrava terribilmente stanca, e allora provò di nuovo quel vecchio, saldo, violento, inutile amore. «In tal caso potrebbe suggerirmi che cosa fare o dire? Non posso lasciare che continui così». «No, non sapevo che stesse così male. Non mi è stato detto niente su come sta». Daniel ripensò alla strana confessione o dichiarazione o discorso profetico di Luca Simmons, che si era seduto dove adesso era seduta Stephanie, parlando a gran velocità, senza guardarlo con occhi smarriti come stava facendo lei, ma farfugliando cose senza senso, le mani tremanti strette sull'inguine. Allora si decise a dire: «Ci sono persone che vengono a raccontarmi dei fatti, che vogliono confidare una certa cosa a qualcuno, vogliono parlarne, ma in realtà non si riesce a fargli dire quale sia il problema. Certuni sono molto indiretti, in parte perché non osano parlare, in parte perché non sono disposti a fidarsi di nessuno che non sia capace di indovinare ciò a cui loro semplicemente alludono, e in parte perché non sanno di cosa parlano e sperano che continuando a parlare si chiariranno le idee. Non gliene importa più di tanto che la cosa sia chiara a me. Così, in un certo senso, visto che non leggo nel pensiero, non sono così ben informato come il signor Simmons pensa o spera che io sia al momento. E non so se ho il diritto di comunicare a lei quel poco che ho capito». «Mi sembra piuttosto sinistro». «Non so, non credo si tratti di sesso. O almeno lui ha fatto del suo meglio per dirmi che non si tratta di questo. Per dirmi che non approva il sesso. A quanto pare crede nel celibato. Ha parlato molto di purezza. Non si riferiva precisamente a suo fratello, ma a generici altri, piuttosto. Cioè ha detto che voleva essere sicuro che non accadesse niente di male agli altri. Quale male, del resto, non era chiaro. Marcus detesta essere toccato da chiunque, perfino da piccolo. Non si lasciava coccolare. Soffriva d'asma». Seguì un silenzio imbarazzato. Daniel pensava ai discorsi contorti di Simmons relativi ai pericoli che altri corrono a causa di forze spirituali scatenate da invocazioni o impurità. Pensava alle sue recriminazioni sul fatto che la Chiesa possiede gli strumenti per contenerle e al suo stizzoso rammarico che la Chiesa abbia abbandonato il potere religioso vivo per dei gusci morti e vuoti edifici pieni di echi. C'erano state digressioni sulla castità, la scienza, i progressi della coscienza, i poteri superiori di altri, l'inadeguatezza di Simmons stesso. Cosa dire a Stephanie era un'altra questione. «Ho avuto l'impressione che avesse a che fare con degli esercizi spirituali, preghiere, visioni e cose del genere, ma alludeva anche, oscuramente, a esperimenti scientifici. Sembrava preoccupato per gli effetti di questi esperimenti su altri. Onestamente non so se si riferisse a Marcus. Se crede glielo posso chiedere. Non amo intromettermi nelle faccende altrui. Sembrano esserci tutti i presupposti per provocare involontariamente dei danni. Non riesco a capire. Marcus non ha mai manifestato alcun interesse per la religione e tutto il resto. Non capisco cosa gli sia successo. Forse aveva bisogno di un amico, l'ha detto anche lei. Forse ha sempre avuto bisogno di religione e non lo sapeva, vista la sua educazione. Poi un giorno l'ha scoperta. Non è per la mamma, poi si accede. Mi sembra un po' strano, ma neanch'io sono molto religioso. Cosa? Non sono molto religioso, ripeté Daniel. Poi sorrise mansueto. Voglio dire, non sono religioso in quel modo, nel vero modo di esserlo. Non vedo segni, non sento voci, e neppure provo una grande pace e cose del genere, e credo che non mi succederà mai. Non ho mai conosciuto nessuno più religioso di lei. No, ma lei non ha idea, mi permetta, non ha la minima idea del significato che ha questa parola, per non dire della cosa in sé. Stephanie si rabbuiò. La mia formazione mi ha insegnato a vedermela con le parole. Parole, ripeté Daniel e rise. Sono un operatore sociale definito in modo altisonante, solo che non lavoro per la società, della quale me ne infischio come entità. Voglio solo lavorare. L'etica del lavoro dello Yorkshire lo confonde con la religione, ma non lo è. E lei lo sa, come lo sa Simmons, malgrado tutte le sue scempiaggini. Lei rise nervosamente. E così sono venuta a sottoporre il mio problema religioso a un religioso irreligioso. È uno scherzo. Non proprio. Il problema rimane. Posso offrirle una tazza di caffè? Le va di restare? Mi piace parlare con lei. Prendo volentieri un caffè. E anche a me piace parlare con lei, se solo non fosse così temibile. Daniel era alle prese con il caffè in polvere. Temibile? Quanti anni ha? 22, rispose Daniel, che credeva nella verità. Quella particolare verità lo rendeva stranamente vulnerabile. Era abituato a essere trattato, a trattare se stesso, come un uomo ben oltre i 30. Nessuno ci crederebbe. È il peso, in tutti i sensi, il grasso e la mia funzione sociale. Daniel si sentiva osservato. Lei stava pensando che era giovane e vedeva di tutto. Dolore, malattia, il terrore della morte, l'orrore del lutto, la fragilità della mente, la follia pura, la solitudine e l'angoscia esistenziale. Tutte cose che la maggior parte delle persone riesce ad evitare, il più delle volte, o patisce, impreparata, sulla propria pelle. Beh sì, era così anche per i medici e per il signor Allenby. Perché ha deciso di entrare nella chiesa, Daniel? Perché non conosco le mezze misure. Mi spaventa l'idea di starmene seduto sulle chiappe senza far niente. Mi spaventa l'idea di rilassarmi. Ho bisogno di essere messo alle corde. Ho bisogno che mi si richieda di non fermarmi nemmeno un minuto. Ho bisogno di una ferrea disciplina. Lei è un ribelle nato. Le due cose non si escludono, o no? Ho bisogno di costrizione. La Chiesa costringe. Capisce cosa voglio dire? In parte, rispose lei, assai colpita da quel misto di orrore dell'apatia e di forzosa, inesauribile energia. Aveva sempre considerato la Chiesa come un luogo di torpore, un esoscheletro fossilizzato con dentro un organismo quasi inerte, piacevolmente intento a ruminare il nutrimento a lungo masticato dei suoi succhi vitali. Ma ho l'impressione che la Chiesa non sia il posto migliore, il posto più vitale. Non ricominciamo, o finirà per fare di me un impiegato municipale comodamente assiso dietro il casellario. Daniel non riusciva a capire quali fossero le obiezioni di Stephanie. Non del tutto. Sapeva bene quanto lei che il signor Allenby era uno snob scansafatiche, ed entrambi sapevano che la carità è un dovere, ma non riusciva a capire perché lei non si rendesse conto che la forza della Chiesa risiedeva altrove. Sebbene si fosse esercitato a fronteggiare la perentoria opposizione teologica di Bill, era incapace di immaginare l'assoluta incredulità di Stephanie per le storie cristiane in quanto tali. Bill aveva la capacità e la determinazione per contestare il chi, come e perché della pietra che rotola nel giardino. A Stephanie semplicemente non interessava, tanto le era chiaro che la verità delle cose non era quella dichiarata dal Nuovo Testamento. Psicologicamente acuto, Daniel era semplice nelle questioni dottrinali, aveva bisogno di esserlo, e ai suoi occhi le evidenti virtù di Stephanie erano virtù cristiane. La sua scrupolosità, la sua dolcezza erano parte di ciò che lui apprezzava in Cristo. Derivavano da Cristo, tutto qui. Esistono buoni cristiani che non si ritengono tali, e lei rientrava indiscutibilmente in quella categoria. Egli sospettava, senza peraltro immaginare la violenza della sua reazione, che Stephanie avrebbe trovato disgustosa una simile idea. «Ha sempre fatto parte della Chiesa, Daniel?» «Beh, no. Ho cominciato da ragazzo. L'unica volta in cui mi sono trovato a far parte di una folla che condivideva la stessa emozione. Una cosa spaventosa, in realtà. Hitler o padre Merfield. Racconti.» Egli le raccontò tutto. Tutto ciò che riusciva a ricordare, sapendo che quella storia, diversamente da altri episodi della sua vita, l'avrebbe commossa. E lei ne fu commossa. E glielo disse. «Era quello che io chiamo religione», disse Daniel. «Quell'uomo avrebbe intuito se Simmons è un profeta o un ciarlatano, o se una visione è un'ingannevole illusione, cose di cui io non mi intendo. Normalmente consiglio di stare alla larga da questo tipo di cose. Ecco perché non posso essere di grande aiuto a Marcus. Quello che posso fare è tenerlo d'occhio. E lo mandi pure da me se crede che possa servire.» «Grazie», disse Stephanie. Niente era cambiato, ma aveva l'impressione che lo fosse solo perché le energie di Daniel si dispiegavano nell'ambito dell'angoscia di Marcus. «Senta, ho una giornata per me e mercoledì prossimo, tutto il giorno. Mi sono tenuto libero. Voglio togliermi di qui. A essere sincero, volevo andarmene da qualche parte per pensare a cosa fare rispetto alla questione che non abbiamo toccato. Pensavo di fare una camminata sul mare. Mi piacerebbe che venisse con me. Non per litigare, si intende. Solo per camminare. Non è andata tanto male oggi.» «Ha ragione. Allora verrà?» «Mi piace il mare.» «Dunque verrà?» Non diceva mai di no, pensò Daniel. Se ne poteva dedurre che non pensava mai sì. Le piaceva far contenti gli altri. Le piaceva lui. Era una cosa esasperante. «Sì», disse infine. «Verrò.» Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.